comunque Roberto andando bene, io 15. Ma è Fabrizio che fine ha fatto? No, stavo rispondendo al telefono. Sì, Fabri, via. Va bene, va bene. Che microfono sta utilizzando, Fabrizio? Come? Che microfono? Questo è l'MC60, però adesso l'altro, quello che hai sentito all'inizio era il 430 con l'MC60. Poi ho usato un microfono, un paio di microfoni che avevo, stavo provando a usare dei microfoni, poi mi sono dovuto interrompere. E poi adesso ho collegato anche il mio, quello che uso sempre. Ma con il processore inserito, sì? Sì, credo di sì, come deve essere, sì. Allora, la radio è chiarissima, la pulita però rimane un pochettino più ricca di tonalità acute rispetto a quelli della Claric Radio, se state utilizzando tutti e due la stessa radio. Poi c'è la Claric Radio che tira un pochettino più di basso. E poi dipende anche dalla modulazione. Comunque ti ascolto perfettamente il segnale, una bomba, 9P50 qua, il più forte ricevuto qua in questo momento. Sì, siamo attaccati anche a roba. Ah, sì. Io quando arrivo dalle tue parti. Vai. Hola, sento nel canale 10, prova di modulazione. Nei 9,50. No, io sto facendo tranquillo, non è, già lo sai, non mi piace tirare il collo. Allora, avanti, vediamo a Franco, avanti a te Franco, che poi farai girare per... Anzi, chiamiamo a Giulio, perché mancava un po'. Giulio, ci sei? Niente, di nuovo a te Franco. Sì, volevo chiederti una cosa, Robert, tu hai per caso piegatrice per lamiere? Lamiere sottile, sì, da massimo 12, mi dà. No, per fare protezioni, diciamo, sotto scocca per fuoristrada. Ah, è roba grossa, no, qualcosa così grosse non ne ho. Qui su una mera minimo da un millimetro per non salire anche di più, 1, 2, 3. No, in genere minimo 3 millimetri, minimo 3. Oppure quelle da 5 o 7 però in alluminio. Ma per l'alluminio non è uno scherzo, cioè c'è l'attrezzatura adatta. Perché si spacca poi. No, ma come le protezioni si fanno sempre in alluminio, non usare il ferro. Fate che poi col tempo anche se metti zingata, graffi e togli la zingatura e si arrugginisce, è rumoroso, l'alluminio è migliore. Le piastre in alluminio sotto va molto meglio. Ecco, l'alluminio anche oppure l'acciaio, non è che te le fanno pagare l'ira di Dio se vuoi comprare quelle originali, dai. Avanti, doppio room. Non c'è. Cos'è la tua fuoristrada? Ricordami fra. È un Pajero, Mitsubishi, è un passo lungo. Lì non riesco a trovare niente di usato, cazzo, si trova lì tutto di quelle macchine. Ce l'aveva Daniele, conosci Daniele, quello che stava qua, che parlava con noi, lui c'aveva il Mitsubishi, chiedi a lui che lui è molto indoltrato di queste cose. Daniele, non lo so, se lo sai, se dovessi sentirlo. Ma tu guardi anche usate, non se ne trovano, difficilmente. Guardo anche nei mercatini così, nel nuovo, ma sono qua del differenziale che è piccolissima, ne vogliono, mi sembra roba di 200-300 euro, ma è piccolissima, figurati quelle grandi del cambio, del serbatoio, del motore. Dimmi un po', tu perché se non vuoi protestare il motore, il differenziale, cosa ti protegge? Inizia da davanti, diciamo da sotto il radiatore, va un paio di pieghe per andare più in sotto, diciamo, il motore, poi c'è quella del motore, poi c'è una stretta che protegge, diciamo, il differenziale, quella roba lì, fino al riduttore, fino al cambio automatico, io monto un cambio automatico, e poi dietro c'è l'altro differenziale, l'ultimo, e il serbatoio, anche, si protegge anche quello. Fammi chiedere a un amico che lui è indoltrato di queste cose qua, ti faccio sapere qualcosa. Ok, vediamo se è entrato il rumo, avanti Gianni, nulla, vediamo se Nicola Lupo Grigio c'è, ci sei Nicola? Tutti spariti, di nuovo Fabrizio, se c'è ancora. Chi è che parla? Avanti che vuole entrare. Che non ti capisco, chi sei? Sei Lupo Grigio, sei 7, però ti sento molto basso, come mai, cos'hai combinato? E ti sei sceso da 7, da 9 a 7 sei sceso, cosa hai combinato? Forse sei sottoalimentato. Se ti ho trovato da sei sceso di 2 punti S, cioè da 7 a 9 a 7. Qui sei sparito del tutto, guarda, quasi del tutto. Ma una domanda Nico, sei collegato all'antenna esterna o sei con l'antennina? Con l'antennina è la già stanno alla grande, se c'è l'antennina arriva alle 7, qua da me è più che bene. Quindi tu fra, vabbè, sei un po' più lontano di me, e probabilmente lui ha aperto verso la mia zona fra. Guarda io linea d'aria, io ce l'avrò, io penso 700-800 metri, è che è proprio chiuso, per me proprio non è mai arrivato bene. Quando era sul terrazzino da lì lo sentivo bene, quando si arriva sul terrazzo col portatile, ma dal suo appartamento è proprio zero. Ecco, è strano, è tutto, teoricamente sei più vicino, molto più vicino di me, io sono potuto dall'altra parte. Però dall'alto magari riesci a captare le sue onde, qui proprio non arriva, perché lui è chiuso, non so se sai dove abiti. So che è zona di Cappuccini, ma Cappuccini è abbastanza lontano, in realtà sarà almeno un paio di chilometri da me, minimo. Ma è proprio chiuso, è chiuso fra i palazzi, quindi no, è messo peggio di me. Vediamo se c'è ancora, Nicola ci sei? Se c'è qualcuno, Santiago 5 e mezza QRM, chi sarà che sta parlando, che non lo sento. Adesso sento un fischio. No, qui è difficilmente, se non li senti tu io proprio zero, sento un po', si muove il QRM e basta. Aspetta, forse mi ha risposto, avanti che è, avanti. Avanti il fischio. Sto parlando, ma sono in mezzo al QRM, non riesco a capire cosa dice. 5 punta di 6 arriva, però il QRM io ce l'ho sempre alto, infatti voglio cambiare antenna proprio per quel motivo lì. Di nuovo avanti chi chiama? E non è il Lupo Grigio che si è messo dentro qualche stanza chiusa, perché adesso No, qua è proprio sparito. All'inizio era un segnale di 1, è una radio di 2, e lo capivo abbastanza bene, io QRM non ne ho. Io finché non iniziano qua le pompe di calore d'inverno, guarda, so bene. Poi ho qualche problema anch'io. Ok, vediamo se è rientrato Gianni Lucchiorum, avanti. Chissà se è quel Giulio, cazzo, gli è andato via, per strada. Sì, c'era, poi l'abbiamo rilanciato, anzi l'ha rilanciato tu un sacco di volte e non ha ripreso. Vediamo poi se è rimasto Fabrizio, se è rientrato ancora. Avanti Fabrizio. Sì, io sono qua, che vi ascolto. Ma cosa hai detto? Stai provando dei microfoni? Che microfono hai provato, Fabio, oltre il 60? No, erano microfoni dinamici, normali. Ma questa è bella la radio. Forse dovresti dargli un po' più di amplificazione, molto chiara, pulita. Sembra che non hai il compressore inserito, però è bella chiara. Ecco, guarda così se ha migliorato o deve aumentare. Provo a aumentare un pochettino ancora. Ecco, adesso ho aumentato un pochettino, come ti sembra? No, no, ti ascolto bene, bella, pulita. Guarda, metta alle 2, guarda adesso alle 2 come siamo. Ancora meglio, prova a sollevare un pochettino ancora. Ecco, adesso l'ho sollevato un po' più delle 2, aspetta, aumento un altro po' di più, ecco, adesso ho aumentato un altro po' di più. Quindi ancora, teoricamente va benissimo così, è perfetta, però come limite di saturazione potete ancora salire guardandomi l'indicatore. Allora, guarda adesso se ho aumentato troppo. Sì, adesso lo sto innescando, abbassa un peluzzo. Adesso ho abbassato un peluzzo. Ma che distanza sei, Fabrizio? Un po', aspetta, ma vicino, allora. Qua adesso sono un po' più vicino. Però fa un passaggio più lungo. Adesso ho il microfono a 20 cm dalla bocca. Perfetta, modulazione perfetta, intensità idem. Va benissimo, perfetto. Quindi se aumento vado a strappare. Poco fa è strappato, l'ultimo passaggio che hai fatto sarà un fischio nel nesco. Quindi se ponte non fa aumentare, aspetta un attimino. Così ho aumentato un pelino, forse non te ne rendi nemmeno conto. Sì, io sto guardando l'indicatore, sei più 8 di B qua. Prova a salire un pelino e io ti dico quanto puoi salire. Allora, adesso aumento un altro pelino. Ecco, ho aumentato un altro pelino. Così va benissimo, perfetto. È croccante? No, ti ascolto perfetto, Fabri, senza nessun disturbo di niente. Poco fa, come hai sollevato, sento il fischietto, stavi già saturando. Io ho qua un indicatore di livello tarato in 10, bel, e mi dice quando inizia a rampeggiare il rosso, bisogna stare attenti, tu non sei ancora arrivato al rosso. Guarda, ho aumentato un altro pochino. Vediamo quanto riesci a salire, prima di ti dico quanto riesci a salire, prova a salire ancora di più. Allora, ho aumentato un altro pochino, guarda adesso come ti sembra, sono sempre circa 20 cm di distanza. C'è da dire che aumenta la radio, però ti porti appresso le ventole, qualcosa di vicino c'ha. Qua già c'è roba, vabbè, però a parte le ventole come ti sembra la radio? No, basta un po' un pochino, o forse sei troppo... o ti allontani un pochettino dalla radio. Ecco, adesso ho abbassato un pochettino, come ti sembra? Così va bene, lasciala così e va benissimo. Ascolta, invece parlo così da lontano, cosa succede? Quasi niente, sempre più alto, sì. Quindi posso aumentare leggermente e tengo il microfono così lontano? Sì, e non sento il disturbo della ventola. Allora, guarda adesso se va bene oppure è troppo. No, così devi abbassare. È millimetrico questo potenzione, guarda adesso. Un pelettino abbassa, Fabri. Adesso ho abbassato un pelettino, come va? Così va benissimo, se sollevi un pelettino inizi già a saturare. E allora lasciamo così, dai. Sicuramente a parità di distanza e di intensità di voce, perché poi magari se ti avvicini, magari ho fatto il limite proprio minimo che puoi salire. E magari chi mi ascolta da lontano, chi è che c'è lontano da me? Adesso più lontano è coso, è Franco. Franco, come lo senti a Fabrizio? Beh, lontano, però c'è un segnalone, qui è, anche lui è quasi sul 930. E la radio come ti sembra? La radio è perfetta, ma anche dall'inizio era leggermente meno spinta, però era chiarissima. Allora, se io aumento a te, vabbè, un pelino, quasi niente, ti cambia qualcosa? Sì, sì, inizia già a essere più rimbombante. E a te, Robè, come ti sembra? Ma adesso hai levato un peluzzo? Sì, ma un pelo, pochissimo. Se tu non hai la voce e tieni questo limite di distanza, sei proprio giusto. Però se solo ancora di più alzi la voce o ti avvicini, vai oltre leggermente. No, va bene, tengo il microfono lontano e tengo una voce, un tono di voce più bassa. Una domanda, prova senza processore per vedere cosa cambia. Così sono senza processore. 4 dB di intensità e sono tanti. Lo so, ma poi questa c'è quel lavoretto che ha... Guarda se voglio, guardati... aspetta un momento qui. Guarda che oscillazione c'ha, passo da pochi watt a quasi parecchi. Però come hai sollevato la potenza, hai sollevato un peluzzino stavi distorcendo. Vabbè, ma adesso come ti sembra che vada? Però passaggio lungo. Guarda, adesso io sto parlando, c'è il microfono lontanuccio, dove lo tengo in genere, e la voce è quella mia. Ma cos'hai fatto? Hai sollevato potenza o qualcosa? Cos'hai toccato? No, ho abbassato un po' di potenza e sta andando in tutti i picchi positivi. Vabbè, così va bene, allora lascialo stare. La tengo così e poi glieli do gli altri, così, vabbè. Poi basta poco, sono troppo sensibili da M. Già lo so, ma spingono parecchio, c'hai dei bei picchi di modulazione poi. Franco, prova a parlare tu un attimino, voglio togliermi un dubbio. Sì, adesso come segnale sei salito, poc'anzi hai superato anche il segnale di Roberto. Vedi un po' come va questo microfono. Una bomba, cioè avete tutti e due lo stesso livello di intensità di microfono. Tu hai pulita, bella la modulazione tua, sapete Franco, bellissima, per essere una radio normalissima, spingi che è una meraviglia. C'è la stessa intensità microfonica di Fabrizio, a parte il segnale che lui è molto più vicino e molto più forte. No, un bel microfono, mi ha sempre dato soddisfazioni questo vecchio Shure, no? No, ho detto, guarda, questa è una delle più belle in assoluto, perché naturale, senza esaltazioni di acuti, di bassi, di medi, è proprio, io non ti conosco in persona, ma dovrebbe essere la tua voce naturale. Non lo so. A volte quando mi ascolto mi sembra diversa, invece quando mi ascolto in una registrazione o un video, dai. Ma ce l'hai un detto, anch'io se mi ascolto, perché tu ti ascolti la distanza dell'orecchio rispetto alla bocca, è diversa da ascoltare una registrazione di un altoparlante, per cui il passaggio dell'aria verso l'orecchio, dalla bocca all'orecchio, è molto più breve rispetto al passaggio che può essere da un altoparlante all'orecchio, per cui c'hai un leggero anticipo di timpano, delle vibrazioni del timpano, per cui molte volte qualcuno si corregge per sentirsi, dice ma la voce non è così, ma lo fanno anche gli artisti, i cantanti, dice ma questa non è la mia voce, perché loro si sono sentiti in un modo diverso, ti senti un po' più citofonico, dai. Non lo so, sembra che a volte mi mangi le parole, ho un po' di deviazione sia da Natale, quindi un po' nasina la voce, me la sento, dai. Andiamo, è più bella. Andiamo. Sì, Luca, un peluzzino più alta di voi ce l'ha il livello di microfono. Beh, scusa, ciao Franco, dimmi. Abbiamo fatto delle valutazioni di intensità di microfono, di modulazione, e sono tutti e due uguali, esattamente uguali, Franco con Fabrizio. E tu c'hai un peluzzino un po' più alto alla radio, ma proprio a livello strumentale, se no non te ne accorgi. Beh, qua è tutto originale, non ho microfoni amplificati, poi il baracchino è solito tuo, quello mi hai inviato tu, se ti ricordi il famoso scambio che abbiamo fatto. Comunque saluto anche a Fabrizio, sono entrato così a due battute che tra un po' vado via da qua. Se ci siete dopo, sono alla prossima, dai, riprendi, ciao Fabrizio, riprendi se ci sei. Ciao Luca, ben sentito anche a te. Stavo provando, ero parecchio che non usavo questa radio e quindi stavo facendo qualche passaggio. Sto facendo poca funiera. Sì, perfetta, non è perfetta. Segnale quasi a fondo scala, sei perfetto. Per me va bene, avanti Fra. Dai, io questo passaggio vi saluto, dai. Ci sentiamo magari più tardi se ci siete da casa, se no la prossima. Ciao, riprendi Fra. Ciao Roberto. Sì, comunque confermo anch'io, la radio di Luca è fortissima, è proprio prepotente. Complimenti, infatti gli faccio sempre i complimenti. Avanti Roberto. Sì, c'è un rumore sentitale, dopo non so se ci sono, certo facciamo un po' di orario, poi vado a mangiare e poi se prima mi guardo per partita, se poi lui tra già bugana. Scappa, io sono rientrato. Buonasera Fabrizio. Laura. Buonasera Gianni. Allora, che si dice? Che si dice? Faccenda lavorando e sono stanco. Ma ne hai fatto le ferie? Le ferie le ho già fatte. Vabbè, dai, allora un po' la spina è staccata, dai. Già va bene così. Avanti, chi è rimasto? Roberto, ci sei ancora? Ehi, hai una cosa al volo, Fabri. Ti ha risposto quella persona? Sì, mi ha chiesto un'altra cosa, gliel'ho detto, l'ho mandato e adesso sto cercando quelle lenti via nastro che va a fare. Devo decidere, vediamo un po' se... Che poi mi era già venuta a farlo tempo fa, ecco, la... ho capito più o meno, è venuta la... Solo che poi avevamo votato per colui che conosceva Alessandro e poi è successo tutto quello che è successo e quindi adesso vediamo se mi rifà. Mi ha chiesto un computo, ma optometrico, di chiamare direttamente l'ingegnere, anche perché non c'è bisogno, per farmi un di massima, dai, poi si vede in definitivo, infino, dai, vediamo un po' se me lo fa, vediamo. Ah, non te l'ho fatto il prezzo, volete attivo, neanche quello l'ha fatto. È quello che mi serve a me, e poi se devo mettere un tipo di cappotto, un tipo di tetto, quello lo vediamo dopo. Pensa che avesse fatto già un discorso definitivo, no, fammi sapere, perché se non va bene lui ti abbiamo avanti, dai, vediamo un po', dai. Ok, di nuovo Franco, che puoi far girare per Gianni. Sì, capa, io chiedo scusa, ma mi stanno chiamando qua, devo finire un po' di cucinare e poi tra un po' si mangia. Ok, un abbraccio circolare a tutti, grazie per la compagnia, rilancio Fabrizio e ascolto i sei finaline e poi chiudo. Ok, avanti Fabrizio. Ti saluto anche io e adesso chiudo qua e vado a vedermi un po' di telegiornale, che sono tutto il giorno fuori casa e non ho ascoltato nessuna notizia. Fabri, stai usando il 30? No, quello di prima era, adesso sto usando il 4. Sì, vabbè, ma non cambierò niente, effettivamente la modulazione è quella, il segnale è quello, quindi va bene. Ok, dai, anche io sono andato a salutare, scusate, mi sono andato per il telefono. Ciao Fabrizio, quando vuoi lo sai, ciao, vai là dove vai sempre, eccetera eccetera. Ciao Franco, ciao Roberto, ciao Gianni Lucarum, ciao a chiunque sia sul canale 10. Buona serata a tutti, alle prossimine, ciao. Ciao Flavio, dai, sto andando via anche io, saluto tutti cordialmente, devo portare il cane già tardi, non me ne ero accorto che era così tardi. Ciao Roberto, ciao Franco, Claudio, Fabrizio, io tutti quanti quelli che sono all'ascolto, dai, quello che fa il mio esecutivo, ciao a tutti. Saluto tutti quanti, Fabrizio, Gianni, Claudio e Franco, buon proseguo di serata a tutti e quattro, se c'è qualche donato lo saluto lo stesso, io rimango ancora qualche minuto acceso, se vuole andare qualcuno, se no faccio altre cose che ne ho tante da fare, dai. Ok, vediamo su 10 se è rimasto qualcuno, avanti. Nico, se sei tu ti sento appena. Attenzione 10, c'è qualcuno? Appena avanti. Vediamo un po' se qualcuno vuole entrare, se no rimango in cuore per qualche minuto. E poi si chiude baracca e burattini. Avanti su 10. Pronto? E dai la giostra, arrivita. Vivi. E bene, come va? Già va bene, dai, quello che va bene è male, quello che va male, dai. Ce ne sono appena tutti andati, c'era Claudio, Fabrizio, Gianni, poi mi chiamo Franco, e poi poco prima c'erano Giulio che è scomparso, non ho capito perché c'era qualcuno che metteva portante, e basta, e tu? Io mi ho detto poco fa, se c'è un cane appeso con me, che c'ho quelli a fare, così c'è, gli ultimi, e c'è da appeso, c'è per un'ora, sono tutti un cane strano, cazzo, c'è un mi sento un bella televisione accesa, ho capito un po' di quello che hai detto. Ciao, va bene, dai, sono rientrato per salutarti, ci sentiamo le prossime. Vabbè, dai, non è che sono sparito perché c'era la portante, perché non sentivo più nessuno, perché la portante copriva tutti indistintamente. Ciao, va bene, alle prossime, ciao, chiudo. Ehi, ciao Giulio, dai, volevo capire perché anche il tuo padre di che zona poteva essere. frequenza del segnale, perché come va a 9.25 39.30 passava solo Claudio e vabbè, quelli più furti tipo Fabrizio e quelli lì, però gli altri vi schiacciava tutti. E poi quello che arrivava giù, per curiosità, mi arrivava oltre i 9.15 9.20, per cui non sentivo nessuno, tutti quanti sparivano, per cui compreso tu, compreso Gianni, con tutti quanti, insomma, ecco, non sentivo più nessuno. Vabbè, però che sia solo un errore schiacciando il tratto, magari qualcuno ha avuto problemi, dai, prendiamola come così. Ok, ciao Giulio, per sentito, dai, ci sentiremo alle prossimine. Ciao ciao, ho fatto ancora dopo il Giulio. Ok, dai, ci sentiamo allora, dai, ciao ciao, vabbè. Vabbè, proprio le faccio a quella persona. Non è che metta la portante solo quando parlo io, metta la portante anche quando parlate voi, stai tranquillo che non è così. Vabbè, ci sentiamo, ciao, speriamo che avessero un accidente, che domani mattina quello lì non so di essere svegliato. Ciao Roberto, ci sentiamo le prossime. Ciao Giulio, ciao. Sì, allora, io adesso faccio qualcosa. Ciao Antonio, ci sentiamo in altre situazioni, così ho 10 minuti, poi vado a mangiare e mi guardo la partita. Allora, ciao di nuovo a tutti, ciao Antonio e tutti gli eventuali amici sul canale 10. Ciao ciao. Yeah, ciao ciao, alle prossime, stai bene. Ciao Tony. Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Avanti, 10 sul 10.